Beh, mercoledì, Non ti sembra un ottimo inizio? Di mercoledì. Boh, se dici tu. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Ma cosa fai? Mi copi? La pausa, ho fatto una pausona. E un saluto da Drago. E un saluto da Drago. E un saluto da Drago. E un saluto da Drago. E un saluto da Drago. Sei sempre lì a dire un saluto da Drago dopo che io ho detto un saluto da Kappa, capito? Vabbè, quindi dici, mi copi? Tu dici bentornati a Chiedo Asilo. Vabbè, anche, però quindi sui saluti mi copi. Ma non è che ti copio, è che siamo in due, quindi prima saluta uno, poi saluta l'altro. Cioè, a meno che non salutiamo tutti e due insieme, che però fa un po' schifo. Ma chi l'ha detto? Proviamo, scusa. Vabbè, dai, allora. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da Kappa. Ecco, hai visto? Si fa un po' schifo. Te l'avevo detto. Quindi non è che ti copio, no. Che se saluto dopo di te solo perché è questione di comprensibilità. Comprensibile. Però bisogna stare attenti. A cosa? A quelli che ti rubano le idee. Oh, ma Dio, anche tu. Ma anch'io cosa? Ma perché c'è già la figlia di Rodotà che ha scritto sul Corriere dei Piccoli che bisogna avere pazienza con i copioni, c'è tutte le istruzioni. Sul Corriere dei Piccoli? Sì, perché l'articolo è uscito sul Curierum, però sembrava scritto per il Curierin. Ci sono suggerimenti per affrontare i ladri di idee in ufficio e sembrano discorsi da prima della classe che deve difendere il compito da quelli che allungano il collo per copiare, sai, capito, quelli che allora dovete mettere il braccio. Ci sono tutte le istruzioni così. Ma scusa, ma la figlia di Rodotà, cioè quindi la figlia di... Sì, proprio la figlia di Rodotà. Lui, sì, Rodotà. Rodotà lui. Lui. Io penso che noi viviamo una regressione. Una regressione culturale. Una regressione morale e anche una regressione politica. Allarme, allarme! Ma quale allarme? Allarme, stanno arrivando nuovi videi! Vabbè, non è un allarme, anzi, è un benvenuto che diamo a tutti noi videi che arrivano con le canzoni, con i videi, come si chiamano? Quelli didascalici delle canzoni del Bambino Alberto. Sì, quindi, diciamo stupidamente didascalici. Molto oppure stupidamente. Eccessivamente didascalici. In maniera quasi, come dire... Parossistica. Parossistica. Ringraziamo Andrea Senneca. Senneca. Che non è Senneca. No. Anche perché lui dice proprio, mi chiamo Andrea Senneca, con l'accento sulla prima E. Sì. Che ha mandato il video di Lampascione. Il video didascalico, parossistico, didascalico di Lampascione. Ed è solo visibile sulla nostra bacheca, perché non è su YouTube. Ecco, lui vedi, ha messo il video, l'ha messo lì, quindi è una cosa esclusiva solo per esclusiva. I nostri ascoltatori. Perché? Non cioè, lo basta so. Che uno faccia... Boh, prova te. Allora, chitarra elettrica in primo piano. Che, che sarebbe un ukulele, ma insomma. Lampascione. Lampascione. Illustrazione scientifica, sì. Cipolla. E qui c'è il giornalista. Esatto. Lo dico e lo ripeto, sia sott'olio sott'aceto, qui ci vuole la passione. Qui c'è tutto, c'è lo dico, lo ripeto, lo sott'olio sott'aceto. E qui c'è di nuovo la chitarra. Per me. Lampascione. Un uomo nudo che corre nella neve. Quando sono in vena. Le vene della mano. Mi mangio un vagone. Il vagone del treno. Quanto mi piace con la carta alla brace. Ma bisogna aspettare domenica. E qui c'è il Santo Padre. Fratelli e sorelle. Bolle Lampascione. Lampascione, cena e colazione dentro il pentolone. Bolle Lampascione, troppo Lampascione. Blocco di gestione. Aia. Lampascione. Dichiaro aperta la riunione della società segreta Negroni. Sì, aperta, ma se non c'è Gildo? Meglio, Albert. Lo so, meglio, ma non possiamo fare la riunione solo noi due, no? Sì, ho capito, ma come sei fiscale, Cioè, voi siete sempre così qua a nord. Ma voi chi? Cosa c'entra? È che bisogna fare le cose nel modo giusto, no? Appunto, scusa, cioè... Appunto cosa? Le cose giuste, ma è arrivato lui. Le dici sì. Tu le cose giuste. Allora... Sì, vabbè, ma io ti invito a pensare quali sono le cose giuste, perché si fa presto a dire quello è giusto, quello è sbagliato, io ho ragione, tu c'hai torto. Ma allora, qui non è una bega di cortile, qui si tratta di regolamenti, di leggi, no? C'è una legge da rispettare? È spiacevole? Si rispetta. Quella è la cosa giusta da fare? Cioè, tu mi capisci? Sì, ho capito, ma forse non sei sconnesso, non mi ascolti. Vabbè, sei sempre distratto. No, potrebbe anche darsi, cioè... Che cosa? No, che magari tu non ti esprima in modo così chiaro, no? Cioè... Vabbè, guarda che poi dopo mi offendo un'altra volta. Oh, allora questa roba dell'offesa! Ho capito, allora. Cioè io parlo, faccio i ragionamenti e tu non fai nient'altro che attaccare quello che dico io. No, qui... Di tu qualcosa. Allora, qui non è che c'è da transigere. Qui c'è, in primis, c'è una riunione di società. Segreta per di più. Sì. E qui la società è fatta da 3 persone. E il regolamento dice che bisogna essere tutti e 3 presenti. Sì. A meno che l'assente non mandi qualcuno in sua vece. Confirma, timbra, bla bla. Sì, ho capito, ma il regolamento, se seguiamo il regolamento, Alberto, l'ho già detto 1000 volte. Là dentro ci stanno le cose giuste e quelle sbagliate, ma il problema sta proprio là. Chi l'ha fatto sto regolamento? Perché magari è il mio problema. No, ma qui ci stiamo allontanando. Chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto? Il regolamento è quello lì. È quello che è sbagliato. E per quello continuiamo a sbagliare. Allora stiamo qua a discutere giusto o sbagliato. Vuoi fare la cosa giusta? E dunque? Quindi lo possiamo fare la riunione, no? E non c'è Gildo, cioè... Ma se Gildo non capisce niente, quando c'è come se non c'è? Allora, lì, quello è vero. Però il regolamento dice che deve essere presente, non è una questione di merito. Bravo, cattivo, intelligente, stupido. È che ci deve essere. È un comma. Vabbè, io te l'ho già detto, il regolamento è sbagliato. Quindi, secondo me, tu devi proprio cambiare la testa. Devi cambiare il modo! Come facciamo a fare imprese io e te, movimenti qua là, il commercio, se non riusciamo manco a fare la riunione? A parte che stai alzando la voce, stai... Scusa, Alberto, allora, sto facendo prendere. Poi qui, appunto per quello, vogliamo fare impresa? Vogliamo fare un'impresa legale o un'impresa illegale? Legale, però, cosa intendi per legale? Il regolamento, e se il regolamento l'ha fatto un ladro? Senti, cioè, se un giorno ti metto un coltello nello stomaco, urli di meno? Allora... Io posso anche capire le tue perplessità sulla legge, il regolamento. Però qui si tratta di un'architettura legale, cioè come dire, in alto. Cioè ci sono degli organi appositi che decidono queste cose. Non è che il primo che passa per la strada e dice «Uè, mettiamo sta regola, aggiungo il comma A barra B». No, non funziona così. C'è tutto delle riunioni, delle assemblee. Tu ci credi pure! Uè, allora, cosa vuoi credere? Per forza, è così, ci hanno insegnato, ma è così, lo ma vedi, sono no? Tutte fregature, quello è proprio quello il fatto, che i regolamenti sono la fregatura numero uno, da lì in poi sono fregature, prendi. E allora noi cosa facciamo? Sì, freghiamo, noi siamo illegali. Devi fare impresa, devi fare, muoversi, commerciare, scammerciare, scambiare, fare, non puoi stare alla ferma e stiamo al regolamento. Uè, allora. Il regolamento? Va infranto. Allora, qui commerciare, fare, disfare, non si capisce bene di cosa si tratta. Qui la società di bambini, no? E fare impresa. Ma fare impresa non vuol dire entrare in clandestinità. Cioè, il giorno dopo siamo già illegali, ricercati! Guarda, tu fai sempre i soliti ragionamenti da settentrionale proprio. Cioè, le cose assurde! E allora, sta roba di settentrionale l'avete rotto, eh? Ho capito! Poi c'è tanto rispettare un regolamento! Non ti piace? Cambia paese! Vai in Svizzera! Vai dalla Svizzera! Vai in Svizzera! Vedi come ti fanno lavorare lì! Chiedi! Vai, lasciami stare, va! Alberto, vuoi dire che non sei più d'accordo con me? Per che cosa? In generale, guarda che mi offendo, eh! In generale, cioè, torniamo al succo. Cosa, ti offendi cosa? Cosa c'entra l'offesa? Che la riunione la facciamo io e te senza Gildo, senza regolamento, stop! Ecco, adesso ci andiamo tutti in classe. Perché questo è il regolamento della... Ti faccio un esempio, questo è il regolamento dell'asilo, no? Suonata a campanella, la recreazione è finita. E si torna tutti in classe. Ma al solito mi offendo. Vabbè, allora, sai cos'è, ti dico? Che hai veramente rotto i coglioni. Momento de psicofarmaco. Ma è Wunderwaffe, lo sponsor del programma. Se va dentro di Wunderwaffe c'è de psicofarmaco. Interessante. Da questo che dopo tu lo prendi, sei tutta bella, vita è bella. Giornata di sole, bello. Sì, quando c'è il sole. Amici di fare cena, bello. Sì. Avere tasse con rate, pagare IVA, pagare, non avere soldi di pagare queste tasse, un po' meno bello, però con psicofarmaco tu dici va bene, avete anche capito, sì, anche per quello. Giornata di sole, ma anche giornata di pioggia, e oggi è giornata di pioggia, fitta.